Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi cari amici, oggi indaghiamo una parola che è difficile da pronunciare, da comunicare, da condividere e ancora più da vivere sulla propria pelle. La parola è dolore. Quando entra nella vita delle persone rischia, lo sappiamo, di tenerle in scacco a meno che non sia ben riconosciuto, diagnosticato e curato. Sentite allora cosa Marco e Mario Pappagallo hanno scritto a proposito in un loro libro, Contro il dolore, uscito nel 2005, che tra i primi in Italia, voglio sottolinearlo, ha cercato di lanciare un messaggio fortissimo relativo alla necessità di cambiare la mentalità sia degli operatori che della gente comune, proprio in relazione al tema dolore. Il dolore è il motivo più comune per cui i pazienti cercano cure mediche. In America ci si rivolge al personale sanitario soprattutto per dolori di schiena, artritici, muscoloscheletrici, gastrointestinali e cefalee. La situazione italiana non è nota, ma non dovrebbe discostarsi di molto, anche nei numeri percentuali, dal resto del mondo occidentale. Il libro dei fratelli Pappagallo era di 5 anni fa, io ve ne consiglio assolutamente la lettura, un libro da non perdere, da recuperare e da rileggere. Oggi, per fortuna, a distanza di 5 anni, la situazione è cambiata, in parte cambiata, molte cose sono successe, ancora molte devono succedere. E la puntata di oggi vuole fare il punto sul dolore a 360 gradi con una particolare attenzione ad un aspetto del dolore che spesso viene trascurato, il dolore cronico, ovvero quando il dolore non è un semplice sintomo di un altro problema di salute, bensì è esso stesso la malattia, perché il dolore può diventare la malattia in sé. E questo, pensate, tutt'oggi a molti operatori sanitari stentano a riconoscerlo. Perciò state con noi perché parleremo con voi del dolore in un modo che speriamo, insomma, innovativo ed esaustivo. E per cominciare saluto il mio primo ospite, il professor Carlo Caltagirone, professore di neurologia presso l'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia a Roma. Professore, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei, dottoressa. Professore, il dolore è un sintomo, a volte esso stesso diventa una malattia, ma questo sintomo come nasce, si diffonde nel nostro corpo? Quali sono le strutture anatomiche, i circuiti fisiologici di cui si serve il dolore per essere percepito? Guardi, intanto bisogna tenere presente del fatto che il dolore è un segnale, ed è un segnale che spesso è molto utile. Lei immagini cosa sarebbe la vita senza la possibilità di evitare rischi e pericoli che sono segnalati a volte proprio dal dolore. Ci sono dei casi di congeniti, di assenza di percezione del dolore, che poi si traducono purtroppo in vite molto difficili allo stesso modo. Naturalmente, quindi, quando è uno stimolo fisiologico che ci permette di evitare il fuoco, delle situazioni invece che un oggetto tagliente e altre situazioni pericolose, naturalmente ben venga che si percepisce il dolore. Ma lei ha parlato di dolore cronico, e il dolore cronico naturalmente è una delle cause più frequenti per cui i pazienti vengono dal medico, e bisogna dare delle risposte, perché ovviamente è un cattivo compagno di strada il dolore quando diventa cronico, quando si perpetua nel tempo. Allora, quali sono le vie? Ci sono dei recettori sulla superficie del corpo o all'interno del corpo che sono o terminazioni nervose libere o degli specifici recettori che possono naturalmente anche essere selettivi per particolari tipi di dolori. Il dolore urente, quello che noi percepiamo quando ci scottiamo, è dovuto a dei termorecettori, dei recettori per il calore. Il dolore che percepiamo quando veniamo punti è un dolore puntorio, che viene, elaborato e quindi trasportato nei centri dove poi viene percepito, è un dolore che viene percepito attraverso dei nocicettori, quindi che ovviamente sono recettori per delle situazioni nocive. Ora, queste terminazioni nervose o questi recettori specifici che sono alla superficie esterna del nostro corpo, all'interno, perché abbiamo anche dolore di pancia, abbiamo dolore di stomaco, abbiamo dolore al cuore, a volte alle ossa. Allora, questi recettori poi convogliono le loro informazioni nelle radici nervose, che penetrano nel midollo spinale al livello delle radici posteriori e poi salgono su attraverso il midollo fino a delle stazioni intermedie e al talamo. Il talamo è un nucleo sottocorticale e da lì poi viene proiettata la corteccia e c'è tutta anche la coloritura emozionale del dolore, perché è attraverso la nostra corteccia cerebrale che il dolore viene percepito con una particolare coloritura a seconda che sia una cosa nuova, una cosa già percepita, il ricordo, evochi il ricordo di qualcosa di spiacevole e così via. Professore, voi neurologi avete molto a che fare con il dolore. Lei ha citato, ha parlato di dolore cronico, abbiamo anche un dolore acuto, ma c'è anche un dolore che voi tecnici chiamate nocicettivo, per distinguerlo da quello neuropatico. Tutte parole che noi sentiamo, ma cui oggi io insieme a lei vorrei dare un significato, per far passare questi concetti in modo molto semplice e chiaro, in modo che ciascuno di noi possa riuscire a fare una differenza, a distinguerli. Sì, è utile naturalmente per noi tutti sapere che insomma, lo stimolo nocicettivo è in genere quello che noi associamo al dolore ed è l'effetto della stimolazione di questi recettori nocicettori, che sono quelli che si trovano specializzati, che si trovano alla periferia del nostro corpo. Sì. Questi recettori producono una sensazione molto acuta e anche molto rapida da percepire, al contrario di perché vengono veicolati attraverso delle fibre nervose mielinizzate, quindi insomma dei canali privilegiati di informazione, mentre altri tipi di dolore, il tatto, la pressione anche dolorosa, il freddo anche doloroso, vengono di solito veicolati attraverso delle fibre meno specializzate, che quindi ci danno una sensazione più torbida di dolore, insomma, meno acuta, come si dice. Il dolore neuropatico è altra cosa, perché ha a che vedere con una sofferenza appunto di questi cavi, i nervi, sì, attraverso le radici poi arrivano al cervello. Allora, quando c'è una malattia che colpisce il nervo periferico, e allora vengono percepiti dei dolori che sono dei dolori, anche più acuti di quelli che normalmente una sensazione dolorosa potrebbe dare, perché è sofferente proprio il canale di informazione. Le immagini che quello che si avverte dopo una scottatura, anche sfiorare la cute della persona che si è scottata produce una percezione del dolore molto intensa, e questo perché i fasci nervosi, che le terminazioni nervose libere, sono distrutte dagli effetti della scottatura e quindi producono uno stimolo diffuso e che produce appunto una sensazione molto intensa, molto forte e molto faticosa da tollerare. Quello che è importante è che ovviamente una volta riconosciuto il paziente va aiutato a tollerare il dolore, insomma, magari con dei farmaci ovviamente. Professor Caltagirone, io la ringrazio per averci accompagnato a distinguere queste varie forme di dolore e averci accompagnato in un viaggio che ci ha fatto comprendere come il dolore arriva, mi passi il termine, a questa grande centralina. La ringrazio per essere stato con noi, per essere stato il compagno di questo nostro viaggio che continua nell'affrontare il tema di oggi, che è il dolore cronico. Grazie professor Caltagirone, a presto, buona giornata. A presto, grazie. E voglio salutare il prossimo ospite. In linea con noi abbiamo il professor Guido Fanelli. Il professore è ordinario di anestesia e rianimazione all'Università di Parma e coordinatore della Commissione Ministeriale sulla terapia del dolore, cure palliative e l'attuazione della legge 38. Professore, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Professore, io oggi le chiedo di aiutarci a capire come oggi viene affrontata e gestita la terapia del dolore. Prima con il professor Caltagirone abbiamo fatto un percorso per capire attraverso quali strade si muove il dolore, come le differenze del dolore, ma è importante parlare di terapia del dolore. Certo. Oggi abbiamo una grande fortuna che da 15 marzo c'è una legge della Repubblica che tutela e garantisce ai cittadini, a tutti i cittadini, bambini compresa, l'accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative. Cioè, oggi abbiamo lo strumento di legge, la cosa più importante adesso è attuare questa legge. Professore, ma quindi noi abbiamo la possibilità di essere tutelati e garantiti, ma quando noi leggiamo terapia del dolore, di che cosa è fatta della terapia del dolore? Guardi, lo leggiamo sempre abbinata a cure palliative, ci traduce in maniera molto semplice, divulgativa queste parole? Allora guardi, la terapia del dolore e le cure palliative sono due binari della stessa rotaia. Sì. Il 96% dei pazienti in cura palliativa ha come primo sintomo dolore. Ma cosa sono le cure palliative? Sono tutte quelle cure necessarie per supportare il paziente e la sua famiglia, questo è un concetto importante, la sua famiglia, pazienti che hanno patologia prognosi infausta, cioè purtroppo non più curabili. Perciò tutto il supporto necessario per tutta la coorte di sintomi che questi pazienti hanno purtroppo prima dell'exitus. Mentre per la terapia del dolore è l'insieme, e la legge nel suo articolo 2 definisce correttamente questi due grandi gruppi di malattie. La terapia del dolore non è altro che l'insieme di tutte quelle metodiche strumentali farmacologiche per far passare il dolore cronico. Il dolore cronico è quel dolore che un paziente ha da oltre 6 mesi, da moderato a severo da oltre 6 mesi. Attenzione, ci tengo molto a sottolineare che il dolore cronico non è solo il dolore da cancro, ma la sfida più grossa è il dolore benigno. Certo. Lei pensi ai mal di schiena? Tutti o almeno una volta nella vita hanno subito mal di schiena. Il 60% delle persone oltre i 40 anni soffrono di mal di schiena. Sono invalidanti. Assolutamente. E questo è il dolore cronico. Professor Fanelli, io vorrei farle ascoltare una lettera che è arrivata in redazione. L'ascoltiamo perché proprio ho bisogno di lei. Sono un uomo di 45 anni. Per un problema chirurgico insorto all'improvviso, sono stato operato in urgenza nel mio piccolo ospedale di provincia. Tutto è andato bene, ma la mia degenza post-operatoria è stata terribile. Per alcuni giorni dopo il mio intervento ho sofferto di un dolore molto forte, per il quale chiedevo aiuto anche farmacologico ai medici di riferimento. Ho trovato un atteggiamento molto differente nei diversi medici che mi hanno seguito. Alcuni erano davvero sensibili a ciò che raccontavo. Altri invece mi facevano sentire come una mezza cartuccia, incapace di tollerare il dolore. Insomma, per qualcuno il mio dolore era un problema medico da affrontare e curare. Per qualcun altro era un capriccio che doveva essere messo a tacere, come si fa con un bambino piccolo. Mi sono sentito molto a disagio. Ero io quello che sbagliava o in quel rapporto mancava un protocollo condiviso per aiutare i pazienti come me? Quanto frequente è questa situazione? Antonio. Professor Fanelli, qualcosa non ha funzionato per Antonio, me lo spieghi lei, sì, ma qualcosa è cambiato, perché io poi con lei vorrei andare a questa legge che è davvero una svolta. Allora, torniamo al caso di Antonio. Da parte dei medici una sorta di noncuranza? No, ma vede, il dolore acuto post-operatorio, che è il dolore che ha avuto Antonio, è certamente in questi ultimi anni... abbiamo molto focalizzato questo argomento. La cosa importante, esistono ora delle procedure in molti ospedali, dai tempi del Ministero Veronese abbiamo ragionato sull'ospedale senza dolore, oggi ragioniamo su ospedale territorio senza dolore, però il dolore acuto post-operatorio è assolutamente fondamentale curarlo, non solo per evidenti motivi di comfort del paziente, ma perché quasi il 20% del dolore acuto post-operatorio non trattato diventa dolore cronico. Bravo, è proprio qui che volevo arrivare. E allora lei capisce che noi generiamo una patologia. Certo. Allora, la legge stessa, nel suo articolo 7, questo gli ascoltatori devono essere molto attenti su questo punto, scrive una legge della Repubblica che c'è un obbligo da parte del personale medico e infermieristico a riportare giorno per giorno in cartella clinica quanto dolore il paziente ha, quale farmaco stiamo usando per il suo dolore e a quale dosaggio, e osservare il trend, cioè l'andamento. Perciò è un obbligo di legge, non c'è una legge della Repubblica che dice che devo monitorare la temperatura, la pressione, la diuresi. C'è una legge della Repubblica che ci dice che il dolore va monitorato e curato. Questo è un obbligo. Quindi noi siamo garantiti e tutelati? Assolutamente sì. Professore, c'è comunque un cambio, no? C'è una nuova sensibilità e anche una nuova cultura nei confronti di questo tema, anche nel rapporto tra medico e paziente. Questa legge sicuramente aiuta. La classe medica è pronta? Guardi, dire che è pronta purtroppo esagererei. Però sì, prontina. Prontina, prontuccia, adesso non so come dite voi, però insomma abbastanza. La legge, ma soprattutto l'operazione che stiamo facendo in questi anni, è quella di fare la prima trincea contro il dolore cronico, e la prima trincea sono i medici di medicina generale. Oggi facciamo un esempio banale da buoni della strada, io e lei. Quando lei si alza o io mi alzo una mattina con un dolore violento, cosa faccio? Vado in ospedale. Dove perciò trovo un'assistenza, almeno un pronto soccorso. Certo. Invece sarebbe utile, dopo opportuna formazione, e perciò formati come si deve, che questi pazienti che hanno un dolore cronico abbiano come prima trincea per fronteggiare la guerra contro il dolore il medico di medicina generale, il quale poi farà il triage, la stratificazione, ha capito? Perciò la classe medica deve essere pronta sul territorio. Professore, sì. possiamo restare ancora insieme, perché noi adesso dobbiamo andare la linea ai mercati, il meteo, e poi torniamo insieme, perché riprenderemo questo tema, anche questa figura centrale che abbiamo a disposizione. Lei faceva proprio riferimento al territorio, un'alleanza, una rete che tutela e garantisce il paziente. Vorrei anche parlare della norma che ha modificato la modalità di prescrizione dei farmaci oppiacei in Italia, anche questo è un passo sicuramente avanti a tutela e garanzia del paziente. Professor Fanelli, resti con me, mercati meteo e poi di nuovo insieme. Ecco, ci siamo tornati insieme. Professor Fanelli, ancora con me, vero? Sì, sono qua. Meno male, professore. Professore, io con lei vorrei anche parlare della norma che ha modificato la modalità di prescrizione dei farmaci oppiacei in Italia. Vorrei fare chiarezza, se ne è parlato, ma vorrei che ce la raccontasse lei, che agli ascoltatori di Radio 24 il quadro fosse non chiaro, chiarissimo. Allora, guardi, questa è una cosa che, non so, decenni che stavamo aspettando un po' tutti. L'articolo 10 della legge prevede che tutti i farmaci oppiacei, perciò ad usum di non tecnici, oppiacei intendiamo la morfina, tutti i derivati della morfina, che non sono iniettabili, perciò i cerotti transdermici, i farmaci orali. Una volta si pretendeva, perché si aveva paura dell'abuso, si pretendeva una ricettazione speciale, triplice coppia, era un affare di Stato andare a comprare questi farmaci. E allora lei si immagini il figlio, il parente che aveva bisogno della morfina, che doveva girare di notte o di giorno, di domenica, a trovare qualcuno che avesse questo ricettario speciale, si chiamava proprio ricettario speciale. Ora, dal giugno dell'anno scorso, il nostro ministro ha fatto una ordinanza che è stata recepita da una legge, questa legge, in cui si semplifica ciò. Semplifica cosa vuol dire? Sì. Che per tutti i farmaci morfinici, senza che non siano iniettabili, perciò non intramuscoli, non endovenosi, si può andare in farmacia con la ricetta rossa del servizio sanitario regionale o addirittura la ricetta bianca normale. Solo nel caso della ricetta bianca il farmacista può pretendere la fotocopia della carta d'identità, per quanto riguarda, per la questione di tracciabilità. Per quanto riguarda la ricetta rossa invece siamo assolutamente tranquilli e autorizzati a farlo. Questo perché nel 2006 in Italia si consumava 0,67 centesimi di euro ad abitante di oppiacei, valore che ci relegava al 90° posto, lei si immagini. Oggi siamo a 1,4. Siamo saliti. Non siamo fantastici, capisce? Però insomma abbiamo più che raddoppiato. Sa, l'oppiaceo perché è importante consumarlo? Perché è appropriato per il dolore. Noi non possiamo continuare a dare fans a go-go, capisci? Tra l'altro i fans vanno a go-go proprio nel nostro paese, sbaglio? Siamo, probabilmente uno dei mercati, sono in mercato, se non ho il dato esatto, però diciamo che siamo uno dei mercati più, così, più importanti per le oppiace, cioè i fans. Per i fans. Lei sa che nel 2003, per esempio, c'era stato un problema sul nimesulide in Irlanda. Era stato ritirato. È stato ritirato in Irlanda. Poi oggi per prendere il nimesulide, non so se posso dire il nome commerciale, ma magari la gente lo sa. Perché sì, tanto, ormai è un po' si può dire aspirina. Sì. Laulin, per capirci. Laulin era... Oggi per andare in farmacia si vuole la ricetta per l'Aulin. Però lo sa che il mercato generale dei fans non è calato? È calato del 75% il mercato dell'Aulin. Il mercato generale è rimasto uguale, generando problematiche, complicanze legate a ulcerazioni e aumento del consumo di farmaci anti-ulcera che sulla spesa sanitaria incidono molto. Quindi? Bisognerebbe switchare, come si dice in gergo, cioè cambiare dal fans all'oppiaceo, perché è solo questione di appropriatezza prescrittiva. Bisogna prendere la cosa giusta. Esatto, bravo. L'indicazione giusta. Facciamo un esempio, il fans per tutto, dal mal di schiena al mal di denti, ha capito, non è una panacea. Ogni dolore pretende il proprio farmaco. Una personalizzazione della terapia. Esatto, la customerizzazione. Professor Fanelli, io prima di salutarla e dare la parola al prossimo ospite in questo viaggio intorno alla parola dolore, agli effetti del dolore, ai trattamenti, alla legge che ci tutela e ci garantisce, vorrei darle l'opportunità di dire di fare una riflessione a voce alta, proprio in amicizia tra di noi, su un aspetto che le sta a cuore, su cui state lavorando, quello che potrebbe essere un suo sogno. Un aspetto che perché tra virgolette in corsivo è un mercato piccolissimo e perciò tante volte, e poi è una cosa molto brutta che facciamo un po' gli struzzi molte volte. In Italia ci sono più di 11.000 bambini all'anno che vanno in cura palliativa, che muoiono, hanno necessità di assistenza domiciliare. Prima del 15 di... tutti siamo genitori o figli. Prima del 15 marzo del 2010 questi bambini non erano tutelati e garantiti. Oggi noi siamo l'unico paese al mondo che ha una legge che tutela e garantisce i bambini che soffrono e che hanno necessità di cure palliative. Quindi una tutela e una garanzia che non conosce età, potremmo dire. Esatto, brava. Complimenti, benissimo. Professore, io la ringrazio perché mi è stato davvero di grande aiuto. Grazie professore e grazie per il suo impegno. Buona giornata. Bella, arrivederci. E noi corriamo a salutare il prossimo ospite, il dottor Pierangelo Lora Aprile, referente dell'area dolore per la Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno e complimenti per la sua trasmissione. Grazie dottore, noi oggi l'abbiamo chiamata proprio nella nostra puntata dedicata al dolore perché vorremmo che lei lanciasse un'iniziativa appena varata che è rivolta ai pazienti, ma pone al centro della strategia di intervento proprio il medico di medicina generale, perché proprio in questo mese è partita la campagna Dolore Misterioso, che prevede la distribuzione di una brochure negli ambulatori dei medici di medicina generale e mette a disposizione di tutti noi, degli italiani, anche un sito www.doloremisterioso.it. Allora, dottore, ci racconti per bene, perché abbiamo già capito che questa legge, siamo l'unico paese al mondo in cui il paziente viene tutelato e garantito, come ci ha spiegato il professor Fanelli. Adesso parliamo di questa bella iniziativa, un altro tassello in più per trattare e sconfiggere il dolore. Sì, sì, la campagna l'ha già lanciata lei di fatto, quindi dando gli estremi del sito internet su cui andare per la parte dei cittadini e completo insomma questa informazione dando soprattutto quelli che sono gli obiettivi di questa campagna. È molto importante che i cittadini considerino il dolore non un qualche cosa di ineluttabile da tenere e da sopportare, ma al pari di tutte le altre malattie una patologia che è, per la cui è possibile parlare con il proprio medico. E allora l'obiettivo numero uno è proprio la sensibilizzazione. Noi abbiamo già alcuni cittadini con dolore cronico che sono i portatori di cefalea, che sono molto misteriosi perché così spesso tengono il loro mal di testa e non ne parlano con il proprio medico. Questo è un fatto noto. Vorremmo estendere questa campagna di sensibilizzazione a tutti i dolori cronici, soprattutto a quei dolori che sono molto fastidiosi e che il paziente stenta a riconoscere come dolore, perché hanno delle caratteristiche che la semantica descrive come bruciante, trafittivo, come una corrente elettrica, come aghi, come scosse. E allora non sempre il paziente è in grado di correlare i propri sintomi con invece un sintomo dolore che ha necessità di essere trattato. E allora da qui la possibilità che nelle nostre sale di attesa vi siano questi manifesti, questi cartelli che richiamano l'attenzione dei pazienti mentre si aspetta il turno di andare ad essere visitati dal medico, per cui si va dal medico già preparati. Questo sintomo, ho letto fuori che c'è questa possibilità, ecco. Poi ne abbiamo anche altri di cartelli diciamo che sul dolore, per esempio, che invitano a misurare il dolore, che è un'altra delle caratteristiche misconosciute non solo della gente ma anche dai medici. L'altro invece è il sito è ormai internet, è un sistema di comunicazione molto importante e in maniera molto semplice, con un questionario guidato, si riesce da parte del cittadino a intravedere se lui è interessato da questa patologia oppure no. Dottor Laura Aprile, quindi insegnate al paziente, agli italiani a prendersi cura, no? A conoscere il sintomo dolore, a parlarne con il medico. Entriamo in questo ambulatorio sperando che il medico ci ascolti. Senta un po' questa lettera. Ho 55 anni. Dopo un incidente automobilistico all'apparenza non troppo grave, ho cominciato a soffrire di dolori molto forti alla schiena. Il mio medico di famiglia per molti mesi li ha sottovalutati. Mi proponeva analgesici e mi trattava come se io avessi un brutto mal di testa che non se ne voleva andare. Un giorno è arrivato a dirmi che forse ero troppo stressata. Così, autonomamente, ho deciso di rivolgermi a uno specialista. Ho scoperto che il mio problema si chiama dolore cronico e mi è stato proposto un piano terapeutico ad hoc. Da quel pomeriggio la mia vita è completamente cambiata. Sono davvero arrabbiata con il mio medico di famiglia. Per quale motivo? Non ha nemmeno ipotizzato la serietà del mio problema. Andiamo adesso a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Torniamo subito dopo insieme per occuparci del caso di Maria. Allora, dottor Laura Aprile, un caso isolato, quello della nostra Maria, oppure un caso frequente su cui voi, Società di Medicina Generale, volete al più presto porre rimedio? Buona la seconda, direi. Cioè, sicuramente, la signora devo dire che è stata fortunata. Perché beh, certo, è una storia a lieto fine, voglio dire. Perché ha trovato uno specialista, direi forse anche il primo che ha consultato, che si è così orientato in quello che era la patologia della paziente. In realtà il problema sottotrattamento del dolore è un problema che riguarda trasversalmente tutta la classe medica, non solo i medici di famiglia. I medici sono impreparati. Io non so se interessa ai cittadini e alla gente conoscere qual è la ragione del perché il dolore è sottotrattato, e quindi dal fatto che non ne viene parlato all'università, viene trascurato nei corsi di formazione, non vi è la sensibilità e neanche la preparazione per insegnare qualche volta ai medici il trattamento del dolore, perché vi è proprio confusione in chi dovrebbe insegnare queste cose. Molto più interessante, secondo me, è la domanda che pone lei: dice, ma voi come società cosa state facendo? Ecco, questo mi pare che sia una speranza anche per a tutte le persone che ci ascoltano. E noi abbiamo fatto una ricognizione nella nostra, noi siamo 45, un esercito di 45.000 medici di famiglia. Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo individuato quali sono le 4-5 criticità importanti. La prima è quella che i medici non misurano il dolore, la seconda è la misconoscenza del dolore neuropatico, la terza è il fatto che non vengono utilizzati molto gli oppioidi e vengono trascurati delle categorie farmacologiche molto importanti come sono gli adiuvanti. E allora come società scientifica ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo fatto un percorso diagnostico-terapeutico che stiamo insegnando ad ogni medico, perché questo percorso che è stato condiviso con le maggiori società scientifiche che si interessano del problema dolore è stato, diciamo, acquisito da parte di un gruppo ministeriale che ha prodotto un volume per i medici di medicina generale e un corso residenziale per dei medici tutor in quattro regioni già espletato, quindi dal Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio e la Sicilia, ma adesso anche diffuso da altre cinque regioni, e quindi Piemonte, Lombardia, Friuli, Toscana e Campania, dove insegniamo ai medici un metodo affinché la signora Maria che arriva nello studio possa essere non solo tranquillizzata, ma visitata con un metodo in cinque tappe per arrivare a una diagnosi, prima di tutto non tanto della causa, ma del tipo di dolore e quindi la scelta del farmaco razionale per quel tipo di dolore. Sentivo il professor Fanelli che prima diceva, insisteva su questa prassi, il farmaco giusto per il dolore giusto, diciamo, e questo è proprio l'obiettivo del corso che portiamo a tutti i medici di famiglia. Dottore, quindi i medici tornano a scuola? I medici tornano a scuola, stanno a vedere quello che risulta da questo, perché l'importante è verificare che poi i nostri pazienti stiano bene, e quindi abbiamo messo in piedi anche un sistema di monitoraggio per valutare quanto questo sistema informativo fa star bene veramente i nostri pazienti. Dottor Laura Aprile, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo il sito www.doloremisterioso.it, perché il dolore non sia più un mistero, mi viene da aggiungere. Grazie dottor Laura Aprile, buona giornata. Buona giornata, buongiorno. E adesso cari amici, noi ci trasferiamo al Policlinico Gemelli di Roma, nell'unità operativa di oncologia pediatrica. In linea con noi abbiamo il professor Riccardo Riccardi, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, voi al Gemelli avete stilato un decalogo proprio perché vi siete resi conto che troppe persone, anche in ambito medico, pensano che il bambino possa sopportare meglio dell'adulto il dolore. Ci sono però dei dati scientifici che negano questa concezione. E finalmente, tra l'altro, di recente sono state introdotte nuove norme in pediatria che facilitano il trattamento del dolore. Allora, ci racconta come queste nuove norme si conciliano con i principi del vostro decalogo, professore? Sì, ma la cosa più importante è quella che ha detto lei, cioè che in generale c'è questa convinzione che il bambino non senta dolore, sia il bambino di qualche anno ma anche il prematuro, e questo è qualcosa di assolutamente sbagliato, per cui spesso si vedeva negli ospedali questi bambini trattenuti a forza per fare iniezioni, mettere a flebo o procedure più complicate. In questo decalogo semplicemente abbiamo ribadito queste cose, cioè che il bambino sente dolore, anzi probabilmente lo sente più dell'adulto, e quindi è indispensabile pensare prima di fare qualsiasi cosa a un bambino che possa essere doloroso, di fare tutto quello che possiamo fare per diminuirgli questo dolore, e soprattutto in condizioni quali possono essere quelle dopo un intervento chirurgico, non aspettare che lui abbia dolore, si lamenti e così via, ma intervenire con una terapia che non è all'occorrenza, come si diceva una volta, ma deve essere programmata e continua. Professor Riccardi, il professor Fanelli ci ricordava e sottolineava che la legge tutela anche i bambini, e quindi in cartella deve essere riportato il tipo di dolore, il tipo di trattamento, i risultati. Professore. Esatto, infatti in questo decalogo che abbiamo fatto abbiamo messo anche quelle che sono le scale per valutare il dolore, in maniera tale che insieme a rendere facile il fatto di rispettare la legge che vuole che le scale di valutazione vengano indicate, ci siano anche queste altre indicazioni sul fatto di attuare delle terapie senza aspettare che il dolore si manifesti in maniera evidente. Il fatto di aver stilato un decalogo che contiene anche il modo di valutare il dolore finisce per obbligare il pediatra a seguire queste che sono delle buone regole che sono previste in tutto il mondo e che spesso in Italia vengono disattese. Grazie professor Riccardi per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci. E a conclusione di questa nostra puntata non poteva mancare la voce di chi si occupa di assistenza ai malati. In linea con noi abbiamo Luca Moroni, presidente della Federazione Cure Palliative Onlus, una federazione che riunisce ben 65 associazioni. Associazioni che svolgono un lavoro fondamentale, quanto mai complesso. Dottor Moroni, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Guardi il futuro ed esprimo un desiderio. Mi piacerebbe che ci fosse una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione, una maggiore voglia di cimentarsi nel volontariato in questo ambito. È un'attività che è sicuramente difficile, ma che può essere molto gratificante, che comporta il desiderio e l'umiltà di avvicinarsi in situazioni di profondo disagio e profonda sofferenza, consapevoli del valore della propria presenza, anche se si sa di non poter apportare a risposte risolutive dei problemi. Però questa attività può avere un effetto, io credo, molto positivo e forse possiamo dire anche dirompente rispetto ai cambiamenti che può indurre nella comunità locale. Fare esperienza da parte del volontario vicino alle persone malate, che anche è possibile avvicinarsi a situazioni di malattia, anche di malattia inguaribile, se non con serenità, che non è certo un obiettivo raggiungibile da tutti, perlomeno con dignità, io penso che possa gradualmente, a piccoli passi, ma contribuire a realizzare delle società meno spaventate, più sensibili e quindi forse anche più capaci di esprimere solidarietà, vicinanza alle persone nei momenti di maggior bisogno. Grazie dottor Moroni per essere stato con noi, grazie del vostro impegno e di queste parole che ci scaldano il cuore e ci spronano ad andare avanti, a diventare volontari, a fare qualcosa. Dottore, grazie, buona giornata. Buona giornata a voi e grazie del vostro contributo. E per oggi è tutto, vi aspetto domani come sempre dopo il Leggero delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.